ci sei qua? Giulio, sulla 27 ci sei. Giulio, Giulio, ci sei 27? Giulio. Ok, avanti. La batteria scarica ormai e non lo sentivo quasi più. Non sentivo, perché la scarica lo stesso, non ho potuto nemmeno cambiare perché anche l'altra la scarica. Ma ti ho detto, come mai stasera non c'è nessuno qua in 27? Non lo so, ho sentito a Gianni su PNR e poi ho sentito a Tore, a Battiglia, a Marino, e allora ho acceso lì, certo, dopo che l'ho acceso lì e mi sono fermato lì, in 27 non c'era nessuno. Però pensavo che ce l'avevi acceso questo, invece a quanto pare l'avevi spento. Io avevo chiamato un paio di volte, avevo chiamato prima, poi avevo spento perché non c'era nessuno e sono sceso giù nella computer, poi sono salito, però quando sono salito non c'era nessuno lo stesso in quel momento, e allora ho abbassato tutto il volume completamente, e però ho acceso il PMR, ho sentito che c'era gente e mi sono fermato lì. Sì, sì. Ah, perché io l'ho acceso, vi ho sentito lì, vi ho sentito, hai detto no. Sarà, casino, sono tutti in PMR. Vabbè, già va bello attento, solo che ne sentivo, neanche la metà ne sentivo di quelli che c'erano. Lo so, purtroppo quella frequenza è così, d'altronde, capita, io sono nella bigliaccia, non riesco a trovare il caricatore del PMR, ma mai ne vedo un punto. Forse l'ho spostato, adesso non mi ricordo dove l'ho spostato, perché lo tengo sempre in questo cassetto a portata di mano e non riesco adesso in questo momento a vederlo. Non è possibile, vedi un punto, non lo so, vabbè, lo cercherò dopo. E a volte succede anche a me, adesso per dire, mi raggio tutto il rinuncio, mi raggio, perché non li sto usando neanche quelli lì, quelle radioline lì, e quando li cerco devono cercare tanti cassetti. Di solito io già tengo le cose sempre al solito posto per domani, ma si vede che li ho spostati. Adesso però non mi ricordo, non vengo, non c'è proprio qua. Qui non tocca niente a nessuno, qui mi tocco solo io. Forse sono vicenti, è verità. Anche quello c'è. Vabbè, meglio il vecchiale però, Mira lì, l'ho trovato, e sai cosa ho fatto? L'avevo messo dentro una scatola, l'avevo messo, ecco perché non lo vedevo, perché c'era sì la scatola in questo cassettino, però no, era dentro, forse l'avevo fatto ordine, allora non me ne lamentavo, complice. Va bene, già l'ho trovato. E se no, io ne ho due, ne ho di quelli. Vabbè, ne ho preso due, ne ho preso di quei due portati, e sono due caricatori. Bene, vera. Bene, stavo uscendo con la radio, no? Sì, grande, era proprio, si sentiva una bella compressione di lusso. Se tu hai abbassato il volume quando hai parlato tu, perché era rispetto agli altri, eri due volte tanto. Quello gli ho comprato cavetto, gli ho comprato e gli ho messo le MC60. Non sapevo che si potesse mettere anche quello. Cavetto, l'hai comprato o l'hai costruito? L'hai comprato? Ho comprato apposta, no, da internet, l'ho preso, da eBay. Ma non è portatile però, ho capito, sì. Ragazzi, sarà fortissimo, ma forte. Fortissimo. Vabbè, quello si sa, è ovvio. Quando si fanno questi abbinamenti, che la cosa funziona alla grande. Non vedo. L'avevo già comprato una volta quel cavetto, però l'ho disfatto perché era difettoso, e a volte agganciavo, a volte no, allora l'ho disfatto, e ha giocato un altro di quelli di cavetto, da Ivis. adesso che ho ordinato un altro e me l'hanno mandato uno, questo è bello, è anche più robusto e tutto, e funziona al 100%. Ah, ok, sapevano che queste carne se lo prendevano così già pronto, senza bisogno di adattarlo eccetera. Meglio così, meglio così. E nel MC70 ci vuole la batteria oppure senza la batteria? No, senza la batteria, quello lì è come questo, come il K, è alimentato. Ok, ho capito. Cioè la radio alimenta direttamente il microfono, senza bisogno di mettere un'altra batteria, ho capito. Bene, bene, bene, molto bene, usciva benissimo, ma bene, bene, bene, bene. Bene, con la K mi usciva, né più né meno. Sì, sì, perché abbina bene con la con l'ICOM, l'MC60, che bunda abbina bene. Sì, sì, è un gran bel lavoro, bene. E mi sa, a volte con qualche euro così uno si ordina le cose e si sistema la stazione alla grande, veramente. No, io non ne ho di quello che io ho sempre portato il vino così. Tra l'altro mi è anche caduto e ero rovinato il frequentimetro, dunque non ci sono più i numeri del frequentimetro, sempre quello, guarda quello che è giù, me ne caggio di terra purtroppo, e pazienza. Vabbè, la cosa oggi costa 39 euro, visto che costa in al computer, sempre quello, è sempre quello, 39 euro. Adesso uno di questi giorni magari me lo riordino, perché funziona questo, però me la fastidia non vedere le frequenze che sto usando, capito? Vabbè, che uso sempre quello, PMR e basta, non è che, però se devo ascoltare altre cose non vedo la frequenza, anche se digitando, anche se non ho sentito il numero, va bene lo stesso, l'aggancio lo stesso. Sì, allora devi stare attento con quello, perché quello lì c'ha due, c'ha sia V e U, e devi stare attento come che non salti, capito? Non tocchi tasti e ti salti e entri sull'altra frequenza. Quello c'è anche perché qui c'è la chiave di blocco, no? Non vedendo il display, non so se è bloccato, se non è bloccato, no, non lo so. C'è anche il discorso potenza 1,58 e non so quale potenza utilizzare, o sto utilizzando per il momento, non lo so, proprio perché non appare più nessun riferimento nel display, c'è solamente il colore blu oppure arancione, ma niente di più, però numeri niente. È per quello che devi stare attento. Caspita, perché se entri là fai un casino. Vabbè, niente di cosa. No, io quelli lì, questo non l'avevo comprato tanto tempo fa, l'avevo preso. È un VU, con doppia frequenza. E uso sempre quello, a casa uso sempre quello, a meno che quando esco uso l'altro, quei portatilini, quando capita che me lo porto. Ok, sì, è certo. Sì, no, io qualche volta già me l'ho portato il portatilino in giro, ma solo il primo periodo, poi mi sono staccato, intanto la mattina non c'era nessuno, ho fatto bene, allora io di solito mi faccio quattro passi la mattina, la sera difficilmente esco, e allora insomma, è cosa lo porto a fare, intanto non c'è nessuno, per cui allora non lo porto più, ecco. Però me lo ricompro, quello uguale, così almeno non ho problemi di cosa. Solo che vuole programmato, ma dovrò prendere anche il cavo per la programmazione, perché quando compri quello vuole programmato. Tu la volta scorsa mi avevi dato il cavo per programmare il mio, e dunque va bene così. Ma ci sono quelli già pronti, già programmati, addirittura ce ne sono, addirittura che ti danno anche 18 volt, 18 watt oggi, e costano sempre gli stessi soldi, intorno ai 39-40 euro, 18 watt addirittura di potenza telematica. Non ho visto neanche uno io su internet di quelle lì a 18 volte. Comunque se te lo prendi, ti do, c'ho dischetto, c'ho tutto io, c'ho carretto, c'ho tutto quanto, però devi qualcuno che te lo sa fare. Quello, ma il dischetto come parla? In italiano parla o in inglese? Non lo so, io non l'ho mai usato, no, il dischetto, ho usato solo carretto e basta. Ah, ok. Vabbè, quello non ci sarebbe problema, se parla in inglese non c'è problema, se parla in italiano non c'è problema, se parla in inglese non c'è problema, e al limite non lo faccio fare dal mio genio, lui l'inglese lo conosce perfettamente, per cui non ci sarebbe il problema, il computer non manca in casa, perciò già ci sarebbe anche quella possibilità, e vabbè, d'accordo, però dai. Adesso vediamo se prendo quello o se prendo l'altro, così anche se è da 18 watt, però bisogna vedere com'è, se la qualità è buona, non lo so, perché i soldi sono sempre quelli, i watt sono molto superiori e non capisco come mai che ci sia questa differenza, il nome è sempre Baofeng. Sì. O io ne ho uno da 8 e uno da 5, ne ho, da 5 volte. E a me me le aveva fatte tutte bambino, me le aveva fatte tutte e due, me le aveva sistemate. E le sono perfette. Sì, ma certo, quello sì. Lo so. Vabbè, tu a me mi avevano fatto quello della veloce, tu gli avevi dato il cavo, gli avevi dato e me l'aveva programmato lui, tutto lì. Sì, me lo ricordo. Poi se lo saluto io me lo ripreso. Appunto. Va bene, dai, questo. Oppure stavo optando per uno di quelli direttamente con l'alimentatore, da usare con l'alimentatore. Ce ne sono piccolissimi, quanto è un pacchetto di sigarette, grande così. Proprio, e ce l'hanno più di uno, ce l'hanno qui, quelli della zona La Feroce, eccetera. Ce l'hanno, c'è gente che ce l'ha. E fanno molto, ma molto bene. E non c'è problema di batteria, ad esempio, come oggi che ho dovuto chiudere, perché la batteria ormai era esaurita, e allora mentre invece con l'alimentatore è un altro discorso. Con l'alimentatore è tutto diverso, infatti in effetti io non uso l'alimentatore perché non ho problemi di che mi manchi la batteria, non è, è tutta un'altra cosa, va? Certo, e poi quello essendo anche PR, diciamo, praticamente prof, eccetera, è tutto un altro discorso. Quell'altro non è che sia proprio professionale, però è una cosa da utilizzare sempre a stazione fissa, solo che poi magari non te lo puoi portare in giro, volendo non te lo puoi portare in giro se dovesse capitare l'occasione. Vabbè, al limite posso sempre utilizzare questo anche se senza frequenza. Poi ne ho un altro anche, però quello è nella 5 watt, ma non c'è niente, lì non c'è frequentimetro, non c'è niente, è proprio cieco completamente, ha i soliti 8 canali e basta, che funziona bene ugualmente, no? Che non è che non funziona, però dovrebbe dare solo 5 watt anziché 8. Vabbè, 5 watt non sono pochi lo stesso, non è che sono pochissimi. Guarda il telefonino che te l'ho mandato. Adesso guarda, è arrivato già. Questo è di lusso, questa è tutta un'altra musica. Te lo credo. Questo è bello, questo è proprio professionale al 100%, certo. È tutto un altro discorso. E per quello anche quella quella potenza che c'era, ma questo ne era più di 20, anche più di 25 anche ne era questo, e forse anche 50. Poco fa ce n'era, quanto hai detto l'ultimo. Appunto, no, perché sentivo proprio tambureggiante la radio, era proprio tambureggiante, proprio al massimo. Ho dovuto abbassare il volume perché rispetto agli altri mi stavi spaccando le orecchie. Se puoi immaginare, era proprio, si sente quando c'è e basta. Era un grido. Sì, poi l'ho abbassata perché secondo come ho il computer acceso, no? Secondo come si aggancia al massimo e a volte mi entra dentro il computer e allora lo abbasso e lo metto più basso possibile, però se arriva lo stesso. Sì, certo che arriva anche se metti a un watt, che poi non lo so la potenza minima quant'è lì, saranno 10 watt minimo, così da 10 a 50. Ma mi sembra che sono adesso non voglio sbagliare, mi sembra che sono 15 20 30 o 50 mi sembra che sia, non mi ricordo adesso. Sì, che ce n'è anche in abbondanza, anche troppo di lì. Sì, fra così va la grande, già lo credo. Ultimamente bene. Quando c'era, quello è un apparecchio, insomma, quello è un bel apparecchio. Un bagliuio è un portatile, un giocattolo, non è che... Ma... anzi, è già un'offerta quando tu gli dici che è un trasmettitore. Se devi dire che è un giocattolo trasmettitore, ecco, si deve aggiungere anche quella parola, giocattolo trasmettitore. È diverso. Sono piccolini, sono, non è che... Questo è un veicolare, è un coso di macchina, per mettere in macchina e basta. Poi gli ho abbinato una colonnina esterna della Fayette ed è, guarda, c'è una ricezione che è micidiale. Non credo che sia la ricezione. Poi con quello senti anche da lontano, ma da lontano da fuori, voglio dire. Con quello è tutta un'altra musica. Con quello che ho io, no? Quello che ho io si è diventato. La zona nostra e basta, niente di più. Sì, a Puglia. Io faccio molto ascolto anche nelle bande radiatoriali e arrivano bene, che sono i genovesi che arrivano alla meraviglia qua. Io lo credo. Poi nella posizione dove si trova la tua antenna, lì in alto, dove cazzo, la tua è una posizione invidiabilissima. Meglio di te, io penso che non ce l'abbia nessuno a Sassari. Non credo che nessuno sia più in alto di te. Credo che tu sei più in alto di tutti, di chiunque, anche più alto di penso di Claudio, perché lì a Sennoli in quella posizione saranno non meno di 400 metri di sopra il livello del mare, sicuramente così. No, io sono molto più giù, sono giù, magari essere stato su nella circolazione di Sennoli, guai, avrei vissuto di prepotenza, allora sì, no, ma sono più giù, Claudio rimane molto più in alto come altezza. Io pensavo che tu eri più in alto. Perché io mi ricordavo che eri lì all'ingresso per andare a Usilo, mi sembra, no? Dove c'è il campo sportivo, eccetera. Io mi ricordavo che eri lì. Magari. No, abito. Io sono a Sozzo, e sono vicino a Sennoli, all'entrata quasi di Sennoli, un 100-150 metri da Sennoli. Ho capito, sì, vabbè, va bene lo stesso comunque, ma comunque grazie al mare davanti a te, là. Grazie al mare, quello sicuramente. Perché da sopra il terrazzo tu vedi il mare, no? Io vedo il mare, vedo tutte le navi che partono, escono, che partono e quelle che rientrano, tutto vero. Appunto, sì, che è tutto libero. È tutto libero, siccome il mare è in pianura. Si nasceva abbastanza in pianura, sì, e non solo a Genova, anche tutto il resto dell'Italia, sempre in pianura, sì, tu. Ecco, infatti, guarda giù, io se prendo i cannocchiali, quando passa qualche barca, qualche nave, gli leggo anche il nome della barca, il nome della nave. Ci credo, mi darò credo, se sei in quella posizione così favorevole, sì, sicuramente. Sì, sì, è vero. Ma lo sai che io mi ricordo, quando ero ricoverato all'ospedale di Sassa, all'ospedale civile, parlo di all'ospedale civile, dalla finestra vedevo la mattina rientrando la nave, la mattina la vedevo, rientrando la nave di linea, si vedeva il mare e la nave di linea, si vedeva, dalla finestra, ma ero in alto, nel piano, al quinto piano, mi sembra che era quello stanzone lì, sì, al quinto piano, quando sono stato operato all'appendicite, e vedevo la nave di linea che passava tutte le mattine. Sì, da lì, nei piani alti, già si vede, sì. E vabbè, è un po' più lontano, però già lo vedi lo stesso. Sì, certo, è lontano, si vedeva che era abbastanza lontano, però si vedeva che la nave stava transitando in quel momento, che stava rientrando per arrivare in porto, insomma, ecco. Vuol dire molto, l'altezza vuol dire molto, molto, molto, ma veramente molto. Io purtroppo sono in una zona bassa, come conformazione territoriale, sono perché da Sassa lì alle punti si scende, poi dalle punti si incomincia a prendere San Giovanni, Ottava e si sale, infatti da Ottava, se noi parliamo insieme, io dalle punti e un altro da Ottava, a me mi passano, perché Ottava più in alto per parlare con Sassa, io non sto parlando per parlare con Sassa, perché più in alto di dove sono io sono a 130 metri sopra il livello del mare, il che significa che sono 90 metri più o meno più in basso di Sassari, per cui poi la casa non è che sia molto alta, è un primo piano, per cui non, niente di più, insomma, ecco. Vabbè, però in confronto già hai una bella posizione, perché vedo che esci da tutte le parti, a parte Alghero, che sei un po' negativo ad Alghero tu, sì, come me lo stesso, vabbè, io se mi metto potenza Alghero arrivo io via, arrivo fuori, però così sì, mi sento, non abbasso. Sì, anche a me, quando sposto l'antenna la metto nel punto alto, non dove sono adesso, sento un bisbiglio e non capiscono quello che dico. Infatti la metto nel punto alto, già riesco ad arrivare anche ad Alghero, però sempre basso. Oh, sento basso anche loro, non è che loro, perché si sa, la trasmissione è anche la portata alla ricezione, non è che ci sia poi questa grande differenza. Il vantaggio, o meglio il grosso vantaggio, è sia per la ricezione che per la trasmissione. Pensa tu quando parla Valerio da Alghero, che mette 300 watt, lo sento appena sentiamo 5, ma con 300 watt però, se li toglie i watt, non lo sento proprio, sento che sta parlando ma non capisco quello che dice. Sì, sì, sì, con Valerio parliamo normale, parliamo, perché lo sento bene io e lui sente bene a me, sente bene. Fa anche lui, probabilmente usa un po' di potenza, in effetti se lui mi arriva per dire 6, 7 qua mi arriva, io gli posso arrivare 4, 5, gli posso arrivare, perché la potenza, lui se ne usa 300, io ne uso neanche 50. Sì, beh certo, è così, infatti è così. Sai cos'è? Il mio problema è anche che sono praticamente sotto Monteolo, c'è tutta la montagna di Monteolo, cioè, e sono anche vicino alla montagna di Monteolo, per cui a saltare un ostacolo così, essendo così vicino, viene male, invece da più lontano viene meglio. È come se uno, per dire, non so, deve saltare la bastichella quando fa il salto in alto, o il salto in alto. Se si mette sotto la bastichella e dà il salto per saltare, non la salterà mai. Se invece prende la rincorsa, la lontano la salta. È lo stesso principio delle onde radio, questo è lo stesso principio. Capo. Hai visto, tu lo sai dove è tutto bella? A tutto bella mi dà più fastidio che modulare a Larghero. Mi dà più fastidio tutto bella, mi dà. Perché chissà cosa devo superare per arrivarci lì, capito? Eppure mi sembra tutto dritto, tutto normale, invece no. Alghero passo, a tutto bella poco. Purtroppo è così, le onde radio sono, alle volte sono veramente strane. Basta che ci sia un ostacolo davanti, lì si infrange lì e arriva magari, arrivi, non può arrivare lo stesso, ma arrivi nel riflesso, magari può arrivare. Ma io mi ricordo una volta quando io lo facevo un elettricista, che facevo anche l'antennista, no? Nello stesso tempo, nella campagna di Icchi sono andato in una campagna a piazzare un'antenna. Questa antenna piazzata a casa del dove abitavo a quest'uomo non si vedeva bene, era sempre tutto pieno. Venga subito un attimo, stavo dicendo, piazzata nella casa questa antenna era sempre piena di nervicio, si vedeva male, sto parlando di tanti anni fa quando facevo io allora questo lavoro. Nello stesso terreno di quest'uomo c'era una salita, c'era, e diventava una montagnetta, diventava. Allora cosa ho pensato? Io ho messo l'antenna sopra questa montagnetta, anziché indirizzare l'antenna che avevo piazzato sulla casa, anziché indirizzarla direttamente a Bade Urbara, perché il segnale lo stavo prendendo da Bade Urbara, non da Monteoro, ma da Bade Urbara, ho messo l'antenna e mi faceva da riflettitore questa antenna che era tutta dall'altra parte, voglio dire, tutta a destra del riflettitore del Bade Urbara. Ma lo sai che sono riuscito ad avere il segnale. Praticamente io, è come se avessi costruito io un trasmettitore praticamente personale, perché ho messo due antenne, una era nella casa dove c'era la televisione e l'altra era in lontananza, sempre nella campagna di quest'uomo, però era in alto perché c'era una salita molto abbastanza ripida, e ho installato un'antenna lì, ho chiamato, poi l'antenna mi faceva da ripetitore e io l'antenna della casa, quella che era nella casa, l'ho puntata a quell'antenna che avevo messo lì su nella montagna. Beh, sono riuscito a prendere il segnale, era grande. Magari gli faceva una specchio, gli faceva e riusciva a trasmettere. Sì, perché con l'antenna essendo l'altro il segnale da Bade Urbara non riceveva. E io lo prendevo di riflesso da quell'antenna secondaria che avevo messo. Per dire, quanto è strana le volte la radiofrequenza o la TV, eccetera. Per dirti, no? E questi esperimenti già ne abbiamo fatto. Ad esempio, allora la stata lì, nella zona lì di Gian Umberto in alto, molto in alto, dove c'era una volta la caserma della Guardia di Finanza, lì le case di lì erano penalizzate. E tu da Monteoro prendevi pochissimo, allora si puntava l'antenna a Bade Urbara e con metri di palo, perché sennò non entrava il segnale, eppure eravamo a Sassari. Ed era in una zona alta, molto alta, Gian Umberto è abbastanza in alto. Poi naturalmente hanno sistemato il tutto perché i trasmettitori sono stati molto più performanti, adesso prendi un pezzo di filo di ferro, l'attacchi dietro il televisore senza nemmeno metterlo sul tetto e gira a vedere la televisione. perché è tutto un altro discorso adesso qua. Glielo credo. Adesso sì, adesso basta un pezzo di coso, perché ho visto che queste antenne che stanno facendo adesso sono fatte, non sono come quelle di prima, che ci voleva il primo canale, il secondo canale, il terzo canale e poi l'altro sotto, ma c'è adesso un pezzo, una grignetta, a schiena di pesce e basta. Sì, anche perché prima erano più direttive, adesso sono qualche a banda larga, anche se non è puntata bene direttamente sul ripetitore, funziona ugualmente bene lo stesso, perché essendo banda larga, anche se non è proprio centratissima, con il ripetitore il segnale entra lo stesso, certo. Va bene, mi hanno chiamato, già avrei sentito poc'anzi che ho risposto, mi hanno chiamato per la cena, la Giuseppe. Scusa, devo scendere per cenare, dai, adesso sono già a tavola. Ciao, grazie per la chiacchierata, ci sentiamo domani eventualmente, ok? Ciao, ascolto fino a qui chiudo. Ok, va bene, dai, ci sentiamo alle prossime. Ciao, buona cena, buon tutto, ci ascoltiamo, dai. Ok, ciao.